vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 marzo, il sole in regione sorto alle 6:17, tramonterà alle 18:15, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Se è vero che non tutto il male viene per nuocere, anche i cambiamenti climatici hanno qualche ricaduta positiva. Anche alle nostre latitudini, infatti, si possono coltivare piante finora relegate ad altre regioni. È il caso della cima di rapa che, oggetto di una tesi di laurea sperimentale all'Università di Udine, trova buone possibilità di crescita anche in Friuli Venezia Giulia. Una sperimentazione che certifica la fattiva collaborazione tra mondo accademico e realtà produttive. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi agli aspetti salutistici del mangiare bio, come certificato da recenti studi che smentiscono chi vorrebbe l'agricoltura biologica perlomeno inutile. A seguire due schede nelle rubriche dell'orto e delle piante, la prima sul finocchio, la seconda sul papavero, con una serie di considerazioni che ci mostrano la complessità e ricchezza di queste piante. Ancora la lettura consapevole delle etichette nella rubrica della sicurezza alimentare, mentre in quella della gastronomia tutte le accortezze per avere una pasta da pizza ben lievitata, ma soprattutto ben maturata. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Che ci azzecca il cambiamento climatico con le cime di rapa? Lo possiamo capire da una tesi che è stata discussa con la professoressa Luisa Dalla Costa da Sara Bosco a Scienze Agrarie a Udine i giorni scorsi. Il titolo è Influenza dell'epoca di semina sul comportamento agronomico delle cime di rapa in Friuli Venezia Giulia. Sara, ci spieghi. La cima di rapa comunque per lo più è coltivata in Puglia, però questi cambiamenti climatici sicuramente stanno portando a un rinnovamento delle varietà coltivate qua in regione, e la cima di rapa poi, tra l'altro, come le altre brassicacee, ha un buon contenuto in glucosinolati, che sono dei composti che sono in grado di combattere gli agenti cancerogeni e sono molto di moda, diciamo, in questo periodo. Correlatore Costantino Cattivello, vecchia amicizia di Vita nei Campi, lei in nome per conto dell'ERSA ha seguito questa tesi sul campo, i risultati che avete potuto vedere voi? I risultati sono molto promettenti, questa è al pari di altre tesi che sono state fatte in collaborazione tra ERSA e Università, hanno permesso di portare sul territorio quelle che sono le innovazioni che vengono pensate e maturate in ambito universitario ed ERSA, e quindi permettono di avere strumenti in più agli operatori qui che operano sul territorio regionale. Sara, come si è sviluppato il lavoro in campo? In campo abbiamo effettuato 3 epoche di semina e sono state trapiantate, e poi si è valutata alla raccolta la produzione totale che hanno effettuato queste piante e il numero di getti di infiorescenze raccolte per pianta. C'è una cima che va meglio per il nostro clima, il nostro territorio? Beh, sicuramente la varietà sessantina è quella che è risultata più affidabile, sia presso il vivaio, in quanto era quella con maggior stato di salute, sia dopo una volta raccolta, perché produceva molto di più. Questo trasferimento tecnologico, chiamiamolo così, dunque funziona? Potremmo avere le cime di rapa made in Friuli, Costantino? Direi di sì, perché ad esempio per quanto riguarda la tesi della Sara abbiamo individuato qual è l'epoca ottimale per la produzione in vivaio. Tesi precedenti, ricordo ad esempio la tesi sulla lattuga, ci ha permesso di individuare quali sono le lattughe che accumulano meno nitrati, altro aspetto importante, e così via, oppure come produrre le piantine in vivaio facendo meno uso di prodotti chimici. Si va in quella direzione, ecco, grazie alla collaborazione riusciamo a focalizzare questi aspetti. Sara, la carta d'identità della cima di rapa made in Friuli, quale potrebbe essere? Sicuramente è un prodotto locale che non dobbiamo andare a cercare nei mercati meridionali, quindi sarebbe proprio a chilometro zero, e sicuramente sarebbe una nuova varietà, una nuova specie da proporre alla clientela nella vendita diretta. Lei ha anche un'azienda agricola in Col di Remanzacco, avete già la piantagione? Da 2 anni che stiamo andando avanti con questa coltivazione e i clienti sono molto interessati a nuove specie, nuove varietà, e quindi si pensa che questa sperimentazione possa avere buoni risultati. I Il biologico e le sue pratiche sono anche pratiche di salute, ci dice tutto oggi Cristina Micheloni che ci cura questa rubrica. Forse sarà una banalità, però ci sono ormai anche delle evidenze in questo senso, che mangiare biologico d'abitudine, non occasionalmente, e curando anche che cosa si mangia, chiaramente non è l'unico elemento, ci sono un sacco di altri fattori che rendono la nostra vita più capace di durare a lungo, ma soprattutto in salute, come fare esercizio fisico, non fumare, mangiare meno prodotti animali, quindi non è solo mangiare bio, è un elemento di un sistema un po' più ampio. Comunque ci sono diverse esperienze che dimostrano come la scelta di prodotti bio faccia bene in maniera anche abbastanza rapida. Ci sono diversi video su YouTube che potete trovare, ma anche pubblicazioni scientifiche che dimostrano come una o due settimane di alimentazione bio diminuisca di più del 50% la presenza di pesticidi, insetticidi essenzialmente e fungicidi, ma anche il glifosato, per esempio, nelle urine delle persone che appunto mangiano bio. Ci sono due esperienze di riferimento, una svedese recentissima nella famiglia che appunto per una quindicina di giorni ha mangiato bio, e una di un paio di anni fa italiana, trovate tutto appunto in rete, ma un po' più solida il lavoro fatto dall'Università della California, che dimostra come mangiare per 6 giorni solo prodotti bio abbatta del 60% la presenza di diversi pesticidi. Uno in particolare, anzi due, il clorpirifos e il malatione, sono diminuiti del 95%. Sono prodotti che sono assolutamente impattanti anche sul sviluppo del cervello, quindi quando prendono i bambini per esempio è una cosa fondamentale, o ancora di più di donne che o sono già in gravidanza o lo saranno negli anni successivi. Una cosa che però vorrei sottolineare è che non è che uno può mangiare quello che vuole e poi ripulirsi, fare le pulizie di primavera una volta l'anno mangiando magari per un mese biologico. Per avere un effetto sulla propria salute bisogna davvero che il biologico diventi un'abitudine, assieme a tutte le altre cose che abbiamo visto prima. Solo così riusciamo a gestire la nostra pulizia interna, la nostra salute, e guarda caso le stesse scelte hanno un impatto positivo sulla pulizia, la salute e la salubrità dell'ambiente in cui viviamo. Ma qualcuno direbbe, chi mi certifica che quello che mangio è veramente bio? Il sistema biologico è il primo sistema certificato a livello europeo, quindi c'è un sistema di regolamenti europei anche troppo complicato. Comunque quello che vediamo poi sullo scaffale, sui prodotti, è il marchio europeo, quello verde con la fogliolina fatta dalle stelline bianche, sotto il quale c'è anche scritto l'origine degli ingredienti. È l'unica categoria di prodotti in cui possiamo sapere, anche il panettone, le focaccine, quello che volete, da dove arriva la materia prima. Dopo la serie dedicata all'avventura dell'orto sociale, Stefano Montello torna nell'orto reale, parlandoci oggi del finocchio, ovviamente con una serie di digressioni storico-antropologiche. La notorietà del finocchio è transvegetale e si applica di più alle costumanze sessuali degli umani che alla pratica dell'orto. L'imitazione della natura è una delle forme della conoscenza, ci conferma la moderna antropologia, ma io credo che nel caso del finocchio si sia preso un abbaglio, o che si sia imitata la natura in modo greve e volgare. C'è qualcosa nelle caratteristiche fisiche del finocchio che può riportare alla mente l'omosessualità, cioè il desiderio sessuale delle persone appartenenti allo stesso sesso? Ecco, a quanto ne so io, il motivo dell'associazione finocchio omosessuale risale al tempo dei roghi dell'Inquisizione, quando era uso spargere sulle braccia ancora calde di legna e carne di omosessuale dei semi di finocchio per attutire l'odore. Il finocchio nasce dal seme leggero, non è facile a germinare, cresce a volte irregolare, ha foglioline di un verde tenero e delicato, soffre per una stagione balorda con poca acqua e troppo vento e può andare a seme in un battibaleno, infischiandosene delle ire degli ortolani. Poi si gonfia e mette su una bella trippetta in prossimità della maturazione e infine si sbianca. Le fibre si fanno candide e la polpa diventa croccante e dolce. Il finocchio pianta, pensa positivo, è rilassato, bonario, un po' menefreghista e senza troppi grilli per la testa. Domestico, insomma, molto domestico. Lo si potrebbe tenere in casa al posto del gatto che graffia il mobilio, lì, sul divano. In tavola, poi, assolve il suo dovere nei confronti di tutti i convitati. Crudo lo si può sgranocchiare, per darsi un tono lo si può presentare associato al pensimonio, cotto ha una sua soave eleganza se lo si prepara al gratin. E in più, profuma di buono, di menta selvatica e liquirizia tostata, e la sua versatilità fa ricordare il Mediterraneo e la Mitteleuropa, i canti arabi e certe osterie della pianura padana. Con i suoi semi si possono affrontare infusi e decotti che calmano i lunatici e zittiscono i cani randagi e danno compostezza alle donne che devono partorire. Insomma, il finocchio è una réclame di una vita quieta e non stressata. E allora, a parte i riferimenti storici, cosa c'entra con l'omosessualità. Quando si parla di papaveri, la mente corre ai fiori che punteggiavano i campi di grano, ma sotto c'è una gran pianta dalle molteplici caratteristiche e virtù, come ci dice Antonino Danelutto. Quando il tepore primaverile si diffonde per la campagna e le piante si preparano alla nuova stagione vegetativa, allora è tempo di andare alla ricerca di primizie che rallegrino la nostra tavola. Una di queste, che in Friuli vanta un'antica tradizione culinaria, è il papavero comune o rosolaccio, nome scientifico Papaver reas, in friulano confenon o papavar. È un'erbacea annua sinantropica, in quanto predilige ambienti frequentati o alterati dall'uomo, come campi coltivati soprattutto a cereali, ruderi, macerie. È rivestita da peli setolosi, ha normalmente un fusto eretto di 30-40 cm, ha foglie variamente divise e dentate ai margini, quelle alla base sono picciolate e ravvicinate a raggiera, mentre quelle superiori, più piccole, sono sessili. I fiori sono solitari su lunghi peduncoli e sono protetti da due sepali che cadono appena si schiude la corolla, la quale è formata da 4 petali larghi, quasi rotondi, rosso-scarlatti, con una macchia nera brillante alla base. Il frutto è una capsula che contiene numerosi piccolissimi semi scuri. In questo periodo, prima che si formi lo stelo fiorale, si raccolgono le foglie giovani, che vengono solitamente consumate lessate e condite con olio, succo di limone e formaggio, oppure utilizzate in minestre, frittate, torte salate. Possono essere mangiate anche crude in insalata, tagliuzzate e miste ad altre verdure. Con i semi si decorano e si aromatizzano pane, torte e biscotti. Nei petali sono presenti piccole quantità di alcaloidi, per cui la medicina popolare considera il papavero un blando sedativo ed antispastico, impiegato anche per conciliare il sonno di bambini, anziani e convalescenti. Altre sostanze lo rendono utile contro la tosse e la raucedine. Tuttavia, siccome non è stata dimostrata a sufficienza l'efficacia terapeutica dei petali del papavero, una loro utilizzazione richiede prudenza. Per lo stesso motivo non si usano i frutti, mentre i semi possono essere mangiati tranquillamente in quanto non contengono sostanze dotate di attività farmacologica. Il nome latino della pianta deriva molto probabilmente dal celtico papa, cioè pappa. A questa, infatti, veniva aggiunto l'infuso di papavero per addormentare i bambini. Il colore dei petali è dovuto alla presenza di antociani, che tingono di rosso sciroppi, confetture, bevande. In passato, con i boccioli e con i petali, le donne tingevano di rosso le labbra e ravvivavano le guance. Il regolamento regionale che tutela la nostra flora permette la raccolta di parti utili del papavero fino a 1 chilogrammo a persona al giorno. Con Claudia Fontanini, che ci cura il progetto della rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole, Claudia Fontanini, che è la responsabile dell'ufficio qualità del consorzio, che adesso si chiama FTB in quanto si è fuso quello del Friuli Venezia Giulia in parte con quello di Belluno, parliamo dell'etichetta alimentare, i significati di marcature e codici. Chi ha la buona abitudine di leggere le etichette avrà notato che spesso, accanto all'indicazione della quantità di prodotto, c'è una minuscola con specifici requisiti grafici di carattere e dimensione. Cosa sa indicare la cosiddetta E metrologica? Gli alimenti preimballati, come possono essere un pacco di pasta o una bottiglia d'olio, sono preparati in modo che la quantità di prodotto abbia un valore prefissato. Il confezionatore deve garantire, attraverso un sistema di procedure, controlli e registrazioni, che il contenuto effettivo, cioè quanto realmente c'è nella confezione, corrisponda a quanto dichiarato in etichetta, il contenuto nominale, entro le tolleranze stabilite dalla legge in materia di metrologia. Può decidere di applicare la normativa nazionale o quella europea relativa ai preimballaggi. La presenza del simbolo E indica che rispetta quanto stabilito dalla legge comunitaria per gli imballaggi preconfezionati in quantità unitarie costanti. Su alcuni prodotti alimentari si trova invece un codice, composto da lettere e numeri, del tipo IT000CE, racchiuso in un ovale. Si tratta del marchio di identificazione, che serve a rintracciare lo stabilimento riconosciuto in cui è avvenuta l'ultima manipolazione del prodotto alimentare di origine animale, per esempio formaggi. Nello specifico, il marchio indica il paese ove è situato lo stabilimento, per esempio IT indica Italia. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi del regolamento europeo che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. L'abbreviazione CE, sigla della Comunità Europea. L'elenco ufficiale degli stabilimenti riconosciuti in Italia è disponibile sulla pagina di consultazione stabilimenti del sito del Ministero della Salute. Partendo dal codice nell'ovale in etichetta, si può quindi facilmente risalire allo specifico stabilimento in cui è avvenuta l'ultima manipolazione del prodotto di origine animale. Fare la pizza sembra cosa da poco, ma sapete la differenza tra lievitazione e maturazione della pasta? Essenziale per avere sotto controllo un prodotto strategico, come ci dice Roberto Zottar. Ultimamente si sente parlare molto di pizze gourmet che, a parte farcitura alla moda, vantano lievitazioni anche di 72 ore a bassa temperatura in frigorifero e che sono particolarmente digeribili e non provocano quel senso di sete che talvolta ci assale dopo aver mangiato una pizza. Ma le nostre nonne non tenevano invece al caldo gli impasti da lievitare, proteggendoli dalle correnti d'aria? Per capire ciò dobbiamo fare una distinzione fra lievitazione e maturazione dell'impasto. La lievitazione è l'aumento di volume dell'impasto dovuto ai lieviti che a 27 gradi, fermentando gli zuccheri della farina, producono l'anidride carbonica che farà gonfiare l'impasto. La maturazione è quell'insieme di processi in cui gli amidi e le proteine della farina vengono scomposti ad opera degli enzimi. Purtroppo i tempi di lievitazione e di maturazione non coincidono, essendo i secondi molto più lunghi. Facendo lievitare un impasto per poche ore, quando lo inforneremo, il processo di maturazione non sarà concluso e la pizza risulterà meno digeribile perché la farina non sarà ancora stata scissa nei suoi elementi più semplici. Per ovviare a ciò, bisogna allungare i tempi di lievitazione dell'impasto, arrivando a farli coincidere con quelli di maturazione. Si tiene così l'impasto in frigorifero ad una temperatura di 5 gradi per fermare il processo di lievitazione, mentre continua quello di maturazione. Terminata la maturazione, portando l'impasto a 27 gradi, la lievitazione ripartirà e si completerà. Questi impasti necessitano di meno lievito perché la maturazione scompone gli zuccheri complessi in zuccheri semplici che vengono così convertiti più facilmente dal lievito. A casa, stasera, impastate per 20 minuti, meglio con impastatrice, 6 etti di farina forte con solo 1 grammo di lievito di birra fresco e 450 ml d'acqua. Aggiungete poi un cucchiaino di sale e 2 cucchiai d'olio. L'impasto sarà molto morbido. Mettetelo in frigorifero in una ciotola e coprite con pellicola. Domani, o meglio ancora dopodomani mattina, con l'aiuto di una spatola date 3 giri all'impasto e rimettete in frigorifero. Nel pomeriggio stendete con le mani l'impasto in una teglia e fate lievitare per 2 ore al tiepido. Farcite la pizza e infornatela a 225 gradi per 25 minuti. L'impasto, oltre a essere ben lievitato, avrà raggiunto anche il giusto grado di maturazione. Otterrete una pizza molto gustosa e profumata, perché gli zuccheri semplici e gli aminoacidi in cui la farina è stata scomposta daranno un colore ed un aroma tipici del pane appena sfornato. La nostra pizza risulterà anche estremamente soffice e friabile, qualità indispensabile per rendere gradevole al palato. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro il quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 19,90 e 20,20, l'orzo tra 19,50 e 20 euro e la soia tra 32,50 e 33 euro. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 20 centesimi e quello della soia di 5 euro e 10 il quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini a macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,30 e 2,80 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,60 e 2,30. Quotazioni ferme pure nel settore dei vitelli da ristallo, dove i brubelga maschi vengono pagati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 5 euro, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,40 e 1,70. Timidi vide accenni di ripresa nel settore suinicolo, dove i latonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 2,24 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,05. Infine, prezzi in salita nel comparto degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 0,93 e 0,95 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,33 e 1,35, le faraone tra 2,35 e 2,39, le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,94 e 2 euro, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante e più un breve contributo di climatologia locale. La caratteristica della prima metà di marzo è di aver portato un tempo condizionato dalle correnti occidentali atlantiche e quindi di variabilità, con qualche fronte in genere debole, alternato a giorni di tempo soleggiato. L'aria è spesso stata carica di umidità, per cui si è avuta la formazione di intercettuali nebbie su pianure costa, ma anche dei vendi temporali. Il totale delle precipitazioni rimane comunque scarso rispetto alla norma di questa prima metà del mese. La temperatura nella prima decade è stata decisamente superiore alla norma del periodo, mentre in seguito, proprio dopo il passaggio del fronte, è scesa sotto la norma, con valori minimi che sono ritornati sotto zero anche in pianura oltre che in montagna. L'anticiclone, che ha mantenuto tempo stabile in questo fine settimana, si va ora portando verso est, mentre le correnti in quota si vanno disponendo verso ovest, portando aria umida verso la nostra regione. Domani giungerà un fronte freddo atlantico, martedì l'aria fredda proveniente dal nord Europa entrerà nel Mediterraneo, generando sulla Sardegna una depressione che successivamente si porterà verso l'Africa, mentre sul nord Europa tornerà un potente vasto anticiclone che farà fluire sull'Italia correnti più secche settentrionali fino al prossimo fine settimana. Domani dunque sulla regione avremo cielo coperto con piogge da abbondanti e intense e consistenti nevicate. La quota neve calerà fino a 500 metri circa sulle Alpi e fino a 700 metri sulle Prealpi. Sulla costa soffrirà scirocco moderato fino alle prime ore del mattino, poi buona sostenuta. Anche in pianura avremo vento da nord o nord-est moderato. Dal pomeriggio le precipitazioni si attenueranno, specie sulle zone occidentali, mentre sulla costa e sul Carso continuerà probabilmente a piovere ancora per la prima parte della notte. Martedì mattina avremo cielo coperto sulla costa e nel Tarvisiano, nuvoloso variabile sul resto della regione, con progressivo miglioramento in giornata. In montagna, al mattino, saranno probabili formazioni di ghiaccio nelle zone innevate. Sulla costa soffrirà ancora buona moderata. Mercoledì cielo ovunque sereno, anche se sul Tarvisiano sarà possibile della nuvolosità di primo mattino. Le temperature minime scenderanno con locali gelate anche in pianura, nelle località dove non soffierà il vento. Sulla costa soffierà buona sostenuta, moderata sulla bassa pianura. Vento dal nord-est moderato anche in quota. Le massime rimarranno in questi giorni sugli 8-10 gradi sulla costa fino a 12 in pianura. Lo zero termico rimarrà a circa 1300 metri. Da giovedì l'espandersi dell'anticiclone porterà aria più mite in quota. Lo zero termico salirà infatti a 2500 metri. Il tempo rimarrà bello, con buona sulla costa e possibili gelate di notte in pianura. Fino al prossimo fine settimana compreso non si prevedono altre precipitazioni in regione, ma con il passare dei giorni e l'attenuarsi della bora potranno tornare le nebbie in pianura. Come sempre, si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. A San Josef la sisile sotto il tetto, ovvero a San Giuseppe il 19 marzo, le rondini sono già sotto il tetto. È arrivata la primavera ad averne oggi di rondini. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.